finiva all'improvviso la città, in una riga nera d'est dei suoi confini illuminati a fuoco dai mortai. I grilli, nell'oscurità di 10 casolari neri, frinivano tra quegli schianti. Le bocche nere dei soldati si richiamavano agli spari. I vivi, a furia di sparare colpi in aria, avevano afferrato i morti. I colpi, a furia di scavare buche in terra, avevano sepolto i vivi.